di pensare a Frosinone e batterlo, così non va a farsi due bucatine alla matriciana, abbiamo tre punti e se ne andiamo a casa. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Vai anche tu a farti due bucatini alla matriciana insieme a Ferrero. Guarda, sei tentato, pensando, sei tentato. Poi adesso ho sentito questa cosa e mi è venuto proprio improvvisamente un buco dello stomaco. Come va? Stiamo recuperando per Inter-Juventus, ma soprattutto lo dico a tutti quanti, non ce la facciamo più con la settimana delle nazionali e Conte che rinnovo oppure no e le inchieste sulle trattative televisive. Stiamo aspettando tutti insieme 800240024 il vento del campionato che si porti via tutta questa roba, vero? Perché sbaglio? Non sbagli, ma anche perché è un vento pazzesco, perché è un weekend straordinario quello che arriva, insomma, con delle partite, due soprattutto, che sono veramente il top, come direbbe Cruciani. Oh. Però c'è anche la terza con sabato con Mihajlovic, che rischia Milan, la panchina, certo, Toro-Milan. Roma Empoli, insomma, trombetta seria c'è stata. Intanto sentiamo, visto che aspettiamo il vento del campionato insieme a voi, 800240024, e datemi torto se ho torto, ok? Sentiamo cosa ha detto a proposito, arbitri, Napoli-Fiorentina arbitra Banti, Inter-Juventus arbitra Valeri, quindi certamente a questo punto ci sono tutti quelli che dicono Banti, Valeri. Ci sono dei pregressi, delle storie, io non le so, raccontatemele voi. Vi faccio sentire invece delle voci, a cominciare da quella di Barzagli, che giocherà certamente in una partita determinante, una partita cattiva, carogna, sia per l'Inter che per la Juve, domenica sera, sentiamolo. Sicuramente sarà una sfida fondamentale, penso soprattutto per noi dovremmo cercare di fare risultato, ecco, perché se vogliamo avere ancora un minimo di speranze dobbiamo sicuramente giocarci una partita e uscirne non sconfitti. Siamo, diciamo, ancora all'inizio, secondo me ancora presto, però 8 punti per l'Inter sono tanti e se dovessero fare risultato, insomma, sarebbe un problema per noi. Sono partiti molto forte e quindi sarà una squadra molto, molto difficile da battere, molto difficile da affrontare e ci dovremmo preparare al massimo. Questo era Barzagli e questa che ci aspetta è una partita da playoff, Pierluigi Pardo, per l'Inter e per la Juventus, più per la Juventus che per l'Inter forse. Sì, infatti sono d'accordo su tutto, apprezzo molto l'onestà, io credo che la Juve debba vincere, premesso che poi può recuperare, però insomma secondo me se vuole, lo so che parlare di scudetto oggi fa ridere, però secondo me se vuole coltivare il sogno scudetto lontano nel tempo, come cantava il poeta, il maestro, deve fare tre punti, non è che c'è molto da discutere. L'obiettivo Champions League, l'obiettivo Europa, secondo me rimarrà aperto e possibile con qualsiasi risultato. È chiaro che non perdere sarebbe già importante per continuare in questa lenta ricostruzione dell'autostima bianconera. Però ecco, Inter-Juve mai come questa volta è una partita, ma anche per l'Inter, anche per l'Inter che perdendo vanificherebbe certo. L'avvio di campionato che ha fatto, e torneremo a parlare di molte altre cose. Però insomma, diciamo, se dovesse venire fuori un pareggio, secondo me potrebbe andare meglio all'Inter che alla Juve. Certamente. Certamente. Allora, altra partitissima che ci aspetta, come sapete, domenica pomeriggio alle 15, dove non si sa, poi ne parliamo perché c'è questa querella dello stadio di Napoli, il casino con il comune, De Laurentiis che pare abbia chiesto addirittura di rinviare questa partita, di rinviare Napoli-Fiorentina, la gara più attesa del weekend insieme a Inter-Juventus. Su questa partita hanno parlato Koulibaly e Gonzalo Rodriguez, uno del Napoli e l'altro della Viola. Una grande partita, lo sappiamo tutti, la Fiorentina ha fatto un buon inizio di stagione, Noi lavoriamo per recuperare i punti persi nelle prime partite e oggi penso che sarà una grande partita, un gran spettacolo per tutti. Ogni squadra come Inter e Milan sono forti, la Juve sempre lotta per cose importanti e io vedo molto forte a Napoli e a Roma, lo vedo che possono vincere il scudetto loro. E adesso, prima del traffico, ne abbiamo parlato l'altro giorno, gli è stato assegnato il tapiro al mancato allenatore del Milan, perché se si cercava un sergente di ferro non era Sinisa Mihajlovic, ma era Eziolino Capuano, allenatore dell'Arezzo, che ieri ha preso il tapiro d'oro così. Io ritengo che chi fa una cosa del genere, io, per me è un onore ricevere questo tapiro, per me non deve giocare più a calcio, cioè uno che esterna fuori dallo spogliatoio quello che accade penso che non è degno di scendere su un... Perché chi gioca a calcio sa che nello spogliatoio le cose si dicono ma rimangono... Poi la cosa più grave è che un allenatore comunque ha 50 anni, 40 anni, essere deriso da un bamboccio di 20 anni o da più di ragazzi non è una fase corretta. Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Tutti convocati. Con Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchione in redazione, sempre Pierluigi Pardo collegato con noi. Mi fai spezzare una lanza su... Spezza quello che vuoi. Capuano, non Giovanni, nel senso che chiaramente... Non Giovanni, ma Eziolino. Esatto, Eziolino, signore Eziolino. No, c'è cioè l'eterna differenziazione fra pubblico e privato. Ne parlavamo per esempio sulla famosa telefonata di Lotito. Ne ha parlato Serra tante volte. La conversazione privata, comunque, chiaramente lo spogliatoio è un luogo privato, è un luogo dove si possono pensare e dire delle cose anche inopportune, in questo caso chiaramente inopportune e certamente non belle. Però ecco, no, ma fai bene a spezzare la lancia, perché la forma pubblica, ma certo, la forma, ma certamente, no, ma non ha torto, Capuano, non ha torto, nel senso che era dentro quello spogliatoio, era arrabbiato da morire con la sua squadra, ha detto delle cose brutte, cattive e volgari, però era coperto dal, io credo, dal segreto professionale, no? No, è stato ripreso con un telefonino proditoriamente ed ha ragione a dire quello che ha detto ricevendo il tapiro, no? Siamo d'accordo su questo. Tutte le volte che viene rivelato qualcosa, un fuori onda o qualcosa, a meno ovviamente che sia una roba divertente, innocua, perché è chiaro che i fuori onda sono bellissimi, insomma c'è un programma come Striscia la Notizia che ha costruito le sue fortune anche su questo, e lo considero uno dei programmi comunque più geniali e più innovativi della TV italiana di tutti i 20 anni, quindi non c'è alcun dubbio che gli inglesi di play the unexpected, no? L'inaspettato piace sempre, ovviamente, perché è vero. E quindi, per carità, va benissimo, però c'è una differenza tra un contesto pubblico e un contesto privato. Sono d'accordo, se io, Luigi, se io parlo sono con d'accordo. Il giocatore nel sono d'accordo, spogliatoio sono gli dico delle cose che pubblicamente, non direi, poi lasciamo stare il fatto che lui era recidivo perché aveva avuto certe uscite pubbliche non nel chiuso spogliatoio, per cui è personaggio per questo. Salutiamo insieme il signor Andrea Sorrentino da Repubblica. Lo salutiamo e lo abbracciamo forte. Lo abbracciamo. Buongiorno Andrea Sorrentino. Buongiorno a voi, ricambio l'abbraccio. Come va? Anche tutto tu... bene? No. Riflettevo, senz'altro Eziolino ha ragione nel lamentare la violazione della privacy, è un fatto gravissimo. Ma a me sembra che ultimamente il personaggio, la figura dell'allenatore sergente di ferro stia cadendo un po' in disgrazia, in realtà, in assoluto. Mi pare che gli spogliatoi del calcio più professionistico... Ti stai riferendo al signor Mihajlovic, per caso? Anche al signor Mihajlovic, andando ancora più su, al signor José Mourinho. No, mi pare che le squadre vincenti degli ultimi anni siano quelle che hanno avuto delle gestioni più morbide. Non che un allenatore debba essere così assente o che lasci fare quello che vogliono i giocatori, però ormai gli allenatori di un certo livello sono quelli che sanno capire, perdonare, alzare la voce ogni tanto, ma non si impongono con queste figure così digrignanti. Perché come la mettiamo con Conte, però? mi pare che siano, ecco, con Conte, ad esempio, vabbè, il Conte della Nazionale è un Conte senz'altro diverso da quello della Juventus, non fosse altro perché le sue, i suoi martellamenti si sono più diluiti nel tempo e quindi magari è un po' meno sergente di ferro anche in nazionale. La stessa Juventus, sì, è vero, lui l'ha gestita molto bene con pugno di ferro, ma poi c'è stata una fase, diciamo così, di così in cui le cose non sono andate più bene, infatti c'è stato un divorzio per certi versi clamoroso, proprio perché il gruppo ormai rigettava certi metodi. Sì, possiamo dire che Conte è l'ultimo dei sergenti di ferro vincenti, però magari anche lui, tornando in un club, secondo me dovrà smussare, perché la carica, la grinta, d'accordo, ci devono stare, ma poi il mestiere di un allenatore a questi livelli è fatto anche di altre cose, secondo me i giocatori poi le rigettano certe metodologie, ecco, ma è una riflessione ad alta voce. Tu dici. Penso che sia, no, io penso che sia, come sempre, tutto molto liquido e molto aleatorio. In questo momento è vero, è un momento in cui sicuramente Mourinho è in difficoltà, Mihajlovic è in difficoltà, ma insomma torneranno a vincere anche i sergenti di ferro. Secondo me ognuno ha la sua leadership, chiaramente, ha il suo stile di leadership. Quello che assolutamente contesto, e sono d'accordo con Andrea, è questa fascinazione dell'allenatore che deve essere per forza cattivo, cioè che non si possa essere autorevoli senza essere autoritari, che per forza l'autorevolezza di una persona debba passare nella capacità di menare, ovviamente metaforicamente, i giocatori quando le cose non vanno. E questo lo contesto in assoluto nella vita, perché penso che esistano tanti stili di leadership. Nel calcio ci sono esempi luminosi, quello che mi viene in mente con più affetto è quello di Carlo Ancelotti. Non ti sento più, Pierluigi Pardo. Aspetta un attimo che parliamo con Giampaolo da Napoli. Buongiorno. 800240024 numero verde. Napoli-Fiorentina, la partita della gioia. Inter-Juventus, quella della paura. È d'accordo? Allora, io purtroppo sono milanista, quindi purtroppo sono giorni tristi, quindi diciamo che Inter e Juventus, sì, forse è come dite voi, però io avevo chiamato, innanzitutto ascolto tutti i giorni, complimenti, perché è una trasmissione la più bella sul pallone, veramente la più bella, la più competente e soprattutto la più super part. Grazie, allora, Giampaolo. Finiamola qui, perché sennò arrossiamo, anche se non si vede. No, sono complimenti sinceri e veri, perché grazie, siete bravissimi. Va bene. Veniamo al Milan. Allora, posso dire secondo me come stanno le cose? Lo dico. Allora, secondo me le cose stanno così. Entriamo nel quarto anno dove io mi metto davanti alla televisione, essendo di Napoli e tifoso del Milan, a vedere la partita del Milan senza uno scopo. Cioè, nel senso che il Milan deve giocare perché sta in Serie A, perché esiste da 100 e passa anni, e quindi deve giocare senza nessun obiettivo, nessuno, neanche il minimo dell'Europa League, e senza più una società che praticamente ha finito di fare la società. Allora, Galliani è andato a maggio praticamente a prendere Ancelotti, che solamente lui ci credeva, perché quando Ancelotti gli avrà detto mi puoi comprare Di Maria, e lui avrà detto di no. Ma guardi, quella di Ancelotti non ci ha mai creduto nessuno. Cioè, è stata una idea di Galliani. Galliani ha parlato con Ancelotti. Ancelotti ha rilasciato diverse interviste in cui ha detto: sì, ma ho subito detto di no, perché non me la sentivo di tornare al Milan in questo momento. Avevo i miei problemi, volevo prendermi un anno sabbatico, eccetera, eccetera. Quanto al resto, Andrea Sorrentino, che dici? Dico che in linea di massima sono d'accordo con l'ascoltatore quando dice che è un Milan che negli ultimi anni ha perso completamente la sua allure, il suo essere Milan. Io non so se per una serie di errori. Sì, però Andrea, il suo essere Milan, anche negli anni, in anni migliori, te lo ricorderai benissimo, c'erano stagioni in cui il Milan diceva ma tanto del campionato che ci frega, ti ricordi, con anche gli anni di Ancelotti, che ci frega, non è il nostro territorio di caccia, non è il nostro territorio di conquista. A ottobre il Milan è già staccatissimo rispetto alle prime della classe, quindi sai, ci sono stati altri anni così. Ma semplicemente, Carlo, il fatto è che il Milan non ha più giocatori di alto livello in nessuna zona del campo, non ha più giocatori che cambiano le cose, non ha più soprattutto difensori. I difensori sono l'architrave su cui costruire una squadra bene o male vincente o comunque di buon livello. il Milan non ha più difesa né difese, il Milan prende gol in modo imbarazzante con tutti gli allenatori che ha avuto in questi ultimi anni, che siano stati esperti come Allegri o parvenu come Seedorf, Inzaghi o serventi di ferro come Mihajlovic doveva fare una sola cosa, no? Doveva dare grinta, tenacia, compattezza. E non si è vista, non si è ancora vista. La cosa più preoccupante è che non è riuscito a trasmettere questo suo modo di essere, questo suo carisma. E questa è la cosa che più mi lascia perplesso. Pardo, sei d'accordo? Sono d'accordo, no, mi veniva da dire che a proposito del nostro amico da Napoli, benvenuto, nel senso che la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio vive quella condizione permanente. Di magari tifare per squadre che raramente si affacciano verso la gloria, però sono d'accordo sul fatto che c'è stato un impoverimento della rosa, sono d'accordo sul fatto che la società sembra in confusione molto spesso, che percorre strade spesso in conflitto una con l'altra, che non trova una chiarezza. Penso che migliorerà, io penso che il Milan quest'anno migliorerà perché sono innanzitutto degli assenti che sono stati un po' sottovalutati nell'analisi complessiva, sì. E poi perché pian piano io penso che certi valori tecnici verranno fuori, che non sono chiaramente quelli per poter puntare lo scudetto, ma sono sicuramente migliori della classifica attuale del Milan. Vabbè, anche perché peggio è difficile, no, peggio è difficile, ma insomma secondo me poi il Milan può un posto in Europa League, lo può conquistare, mi rendo conto che questa è una per gente che è abituata a vincere coppe e campionati è una constatazione da proprio poco, magra, sì, come quegli yogurt che non sanno di può, nulla, ecco. Non può essere contento alla prospettiva di arrivare in Europa League se sei un tifoso del Milan. Giovanni da Bergamo, poi salutiamo Andrea Sorrentino. Giovanni buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, mi dica. Allora, volevo solo così contestare un po' le vostre affermazioni sul fatto che in uno spogliatoio si può fare tutto quello che vuole perché si è coperto dalla privacy. È come dire che a tavola propria, in casa propria, uno si può mettere le dita nel naso, fare il ruttino, fare tutto quello che vuole, però quando è al ristorante con gli amici ci si comporta bene. Se ci sono le regole, devono valere all'interno dello spogliatoio o fuori dello spogliatoio, di educazione, buon comportamento e tutto. Poi uno può essere più duro o meno duro, più morbido o meno morbido, può essere il sergente di ferro, però la buona educazione e le buone regole valgono dentro e fuori dallo spogliatoio. Ma sì, ma su questo non c'è dubbio. Nessuno contesta questo. Esiste quasi un segreto professionale, no? Da questo punto di vista. Esatto, cioè, io contesto esporre in un ambito pubblico qualcosa di privato. Tutto qui, poi che quell'uscita sia stata da condannare, da censurare, sono perfettamente d'accordo, come la famosa frase di Lotito, certamente è una frase pregiudicata che può aprire. Certo, ma non dovevo uscire di lì. Il problema è che non dovevo uscire di lì. Però credo che se io faccio una conversazione privata al telefono con il signor Centa e gli dico ammazza Capuano oggi, però quanto è stato prolisso, oppure ammazza quanto è stato figo Capuano, questa cosa qui non mi aspetto di trovarla pubblicamente esposta a tutti, al di là del fatto che adesso ho citato Capuano, non il Ziolino, ma il nostro Giovanni, capito? Cioè, comunque una cosa, oppure quanto è buona quella, ecco. Cioè, non mi aspetto che questa cosa possa venire fuori, certo, in una conversazione. Certo, solo questo. D'accordo, poi, sono d'accordo, per Luigi. Sono completamente d'accordo con il nostro ascoltatore e posso anche capire che poi è la tesi di chi queste cose le fa venire fuori, che di fronte a una serie continua di vessazioni, alla fine l'unico modo per poter provare a sbloccare la situazione è quella di denunciare usando quest'arma, che però secondo me è un inganno, lo ribadisco. Ma è stato un inganno. Lasciamo la chiosa ad Andrea Sorrentino da Repubblica. È che la chiosa è che da quando ci sono i telefonini e l'era dei WikiLeaks, tutti questi discorsi se ne vanno a farci benedire. Avremo sempre più cose di questo genere perché ormai la violazione della privacy è diventata una notizia. Ma sei d'accordo sul fatto che sia stata una violazione della privacy? Cioè, su questo penso siamo tutti d'accordo, a prescindere dal contenuto, a prescindere dalla sostanza, si tratta di forma, no? Rispetto alla telefonata di Lotito c'è una differenza però a favore del giocatore dell'Arezzo, che qui non c'è stato l'inganno, cioè qui c'è stata semplicemente la rappresentazione di qualcosa che evidentemente succede spesso in quello spogliatoio. Lì c'è stato proprio il blandire il proprio interlocutore, mettersi d'accordo con i giornali e con tutto il mondo fregando, se io faccio la telefonata con te ti dico sì sì c'è ragione, per farti dire delle cose e poi dopo denunciarle pubblicamente. Qui è chiaramente una cosa più di gesto di un giocatore che di fronte a tutto quello ha detto sai che c'è, te la faccio pagare. Certo. Sì, è stato così, ma rimane un raggiro. Andrea Sorrentino, grazie, ciao, alla prossima. Ciao Andrea, ciao, ci fermiamo per la borsa con colpevole ritardo, torniamo subito. 800240024 numero verde. Le puoi dire che non mi staccano il microfono a questi signori che mi fanno parlare questi, lo puoi dire? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire, arrieccici. Convocati. Non mi dispiace questa che scrive Marco via SMS 349-238-6666. Lo spogliatoio di una squadra di calcio è come la camera da letto. Quel che si fa non dovrebbe essere detto. Fa anche rima. Parliamo con gli ascoltatori. Pierluigi Pardo, a cominciare da Davide Vicenza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo solo chiedere come mai non avete aperto con la pallavolo vista l'ottima vittoria sulla Russia. Perché ne parliamo dopo? Ho capito. No, pensavo apriste con quella visto che era la notizia principale del giorno. Ne parliamo dopo, non si preoccupi. Ce l'abbiamo in scaletta la vittoria dell'Italia sulla Russia 3-0. Una semifinale che giocheremo contro un amico, cioè Andrea Gianni, allenatore della Slovenia. Sicuramente poi vi faremo ascoltare le voci dei protagonisti. Fabio Udine. Sì. Fabio. Buongiorno. Complimenti per la competenza. Mandi. Buongiorno, mandi. Allora, io vi volevo proporre uno spunto di riflessione sulla sfuriata del signor Capuano. Sì. Premessa, ho giocato a calcio, alleno, quindi me ne intendo un po' di spogliatoi, e quando ero ragazzo, qualche allenatore focoso che si arrabbiava tra il primo e il secondo tempo. Sì. Sinceramente, quello che io sono d'accordo con voi, che tutto quello che resta nello spogliatoio deve essere privato, è qualcosa di privato, anche se col tono che ha usato vi garantisco che nei calcio dilettanti basta che uno si metta fuori dalla porta e riesce a registrare. Sì. Però sinceramente le parole che sono state usate, soprattutto alla fine, sinceramente meritano una forte, forte condanna. Nessuno si dovrebbe mai permettere di utilizzare quelle terminologie. Poi sono d'accordo con voi che purtroppo, e questo l'ho provato sulla mia pelle. Fabio, stiamo parlando però di forma e di sostanza, no? Quello che le dice è vero, soltanto che è stato violato quello che dovrebbe essere, a mio parere, un segreto professionale. Poi, però probabilmente se l'ascoltatore ci fa riflettere su una cosa, cioè che nella nostra voglia di sottolineare questo aspetto, io ribadisco completamente, cioè a me non piace che una cosa poi venga, cioè la differenza tra una conversazione pubblica e una conversazione privata, poi si rischia di non parlare di ciò che mi sembra scontato, ma che è giusto a questo punto ribadire, cioè la condanna, perché sicuramente quelle espressioni lì non vanno bene, su questo non ci sono dubbi, quindi ha fatto bene a dirlo, perché altrimenti si spostava troppo il fuoco su questo secondo elemento. Sono d'accordissimo con lei, così come con l'ascoltatore di prima, cioè l'educazione non è che se sei dentro lo spogliatoio vuoi fare quello che ti pare, ci mancherebbe altro. Quindi questo no, però non evidente, dovrebbe ma... uscire di lì, esatto, il discorso esatto. È questo, non dovrebbe uscire di lì, non dovrebbe essere reso pubblico. Poi certamente il giocatore che si sente offeso ha anche la facoltà di ribattere o di andare dalla società o di agire diversamente rispetto a rendere pubblica una conversazione che dovrebbe essere privata. Il discorso è più generale, cioè io credo che nella vita di tutti noi, se venissero pubblicate e rese pubbliche, ma ripeto, ma delle cose più banali, no? Ma chiaro, le chiacchiere, le battute, il cazzeggio, o anche delle cose che pensiamo profondamente nel profondo del nostro cuore, ma che magari diciamo al telefono o diciamo in un contesto di un certo tipo, se queste cose qui vengono poi rese pubbliche, credo che ognuno di noi qualche figura, no? Qualche figura di certo, della sua vita, la parente, perché è ovvio, perché fa parte della vita. Solo questo, in generale è ovvio che quelle parole lì non sono accettabili. Questo certamente, non certamente. Senti, vorrei cambiare argomento e provare a spiegare, me l'hanno chiesto diversi ascoltatori via SMS, io l'ho promesso, la situazione che si è creata a Napoli. Antonio Giordano, nostro amico, carissimi, a proposito di figure dal di Corriere dello Sport, dica, è di quella cosa che ha definito De Laurentiis, che è lo stadio di Napoli. Beh, lo stadio di Napoli sì, ma cosa sta succedendo lì? Cioè, questa convenzione è scaduta, ieri c'è stato un consiglio comunale di 8 ore, dopo il quale non è stato deciso niente. Pare che oggi De Laurentiis abbia chiamato Renzi dicendo questa partita sa da spostare. Che sta succedendo intorno a Napoli-Fiorentina? Sta succedendo quello che succede da sempre, da troppi anni, onestamente. È una vicenda che definire grottesca fa eufemismo, perché siamo ben oltre il ridicolo e anche dire la vergogna, considerato che parliamo comunque di aspetti che coinvolgono la sfera anche pubblica, cioè coinvolgimento di una città intera, al di là di quella che può essere poi la retorica di maniera, ma non ce n'è. Sì, Antonio, ma lo stato dell'arte qual è? Che non c'è una convenzione in atto tra il comune e il Napoli Calcio, che quindi il Napoli Calcio dovrà provvedere in questo momento, come dire, a redigere, diciamo così, un contratto di locazione momentanea attraverso il quale ottenere la concessione dello stadio. Quindi al momento la convenzione non c'è, al momento Napoli-Fiorentina, la partita più attesa della domenica pomeriggio, è senza casa, è così? Sì, ma ce l'avrà la casa, perché mentre noi stiamo parlando immagino che ci siano in atto una serie di consultazioni, di chiacchierate, che si arriverà comunque ad una conclusione, cioè non esiste il pericolo che non si giochi, credo, da augurarmi. Io sto andando proprio nei pressi del San Paolo, dove tra un po' ci sarà della, e così cercheremo anche di saperne un po' di più, di capire cosa abbia portato la notte, se il consiglio non comunale, perché oramai non ce n'era più, o comunque una soluzione, ma la soluzione questa verrà fuori. Il problema è molto più ampio, di una portata molto più grossa, perché si vive comunque nella precarietà e in uno stadio, per Luigi ve lo può testimoniare, che è un letamaio, che non ha nulla, che è un letamaio, dai. Se state allargando il discorso, mi fa pensare per l'ennesima volta al fatto che le persone come Antonio Giordano, le persone simpatiche, eleganti, per bene di Napoli, che sono ovviamente la grande maggioranza, sono le prime vittime di tutta una serie di problemi che passano tutti i giorni sulle loro pelle, ovviamente non soltanto a Napoli ma anche in altre parti d'Italia. Ma sono vittime, non sono colpevoli, perché insomma, San Paolo è uno stadio di grande suggestione, di grande fascino, ovviamente, perché è uno stadio caldo, perché ci sono stati pezzi importanti della storia del nostro calcio lì, ma finisce qui. Poi per il resto è uno stadio che è veramente antico per concezione, per pulizia, per parcheggio, insomma, Antonio ce lo potrà confermare. E quindi poi, ma la più banale di tutti, Piero, e noi la viviamo sempre, prima o poi qualcosa dovrà succedere nell'ascensore. Rimane bloccati per la 300ª volta e magari un filo scoperto qualcosa per fa, mi auguro di no, ma si fa finta di non vedere, si procede attraverso le dinamiche che appartengono alla vita politica, che non sono la mia e neanche la tua, che non conosciamo, ma è impensabile che ieri sia andato via il numero legale, è impensabile che a 5 giorni da una partita non ci sia, come dire, un accordo, è impensabile che in tutti questi anni qualsiasi tipo di amministrazione abbia cercato di tappare la falla, ammesso che ce ne fosse una sola, ma ce ne sono decine. Poi è chiaro che i metodi di De Laurentiis a volte possono non piacere, perché i toni rischiano di essere esasperati. Sì, ma Antonio, però qui siamo di fronte a dei fatti. Fondamentalmente, siamo di fronte a dei fatti, non siamo di fronte a delle parole o ad una querella stucchevole. Siamo di fronte a... Ragazzi, un attimo solo che mando il traffico e poi torniamo a parlarne. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, con Pierluigi Pardo e Antonio Giordano del Corriere dello Sport stiamo discutendo sulla paradossale, comica verrebbe voglia di ridere, ma c'è da piangere. Situazione del Napoli, dello stadio di Napoli, di questa mancata convenzione tra il Napoli e il Comune, e di questo Napoli-Fiorentina che alla fine ovviamente si giocherà domenica alle 15. Però la situazione è, ripeto, paradossale. Pierluigi, stavi dicendo qualcosa? Sì, stavo dicendo che tra l'altro mi sembra anche strana questa mancanza di interventi sullo stadio, perché banalmente, proprio per seguire quelle logiche della politica di cui parlava Antonio, delle quali a noi non ce le può fregare di meno, tanto per essere chiari, però insomma lo stadio è, dal punto di vista elettorale, no? Dal punto di vista dell'immagine, il sindaco di Napoli, non ti dico che è una delle prime cose che farei paraculescamente, no? Però è comunque una cosa, migliorare una situazione che va avanti da tanti anni e rendere il San Paolo uno stadio un pochino più gradevole, più civile, più umano, ecco, cioè più all'altezza della situazione, al passo con i tempi, della clamorosa, straordinaria passione della gente che ci va, perché chiaramente non è che rinuncia ad andare allo stadio solo perché è sporco o perché è scomodo, e quindi sarebbe, secondo me, anche dal punto di vista strettamente proprio elettorale di immagine, una grandissima operazione. E non so, però Antonio, mi pare che nessuno, o non ci sono proprio i soldi o non c'è la voglia, no, perché non succede? No, perché c'è una burocrazia che qui evidentemente ha delle passioni che sono molto più perfide di quelle che si sono registrate altrove. Eppure dovremmo essere in un solo paese, ma colgo con grande ammirazione che la Juventus ha creato uno stadio che veramente è un gioiello e che l'Udinese sta facendo altrettanto. È un problema che esiste un po' ovunque, Napoli esiste molto più che altrove, perché lo stadio è veramente in condizioni di saltare nella... Eppure è uno stadio che, se puoi prendere atto, ha una situazione logistica invidiabile, ci arriva la circondariana, ci arriva la merce, c'è l'uscita. Cioè sarebbe. Quindi è una questione burocratica, tu dici? È solo una questione politica e burocratica. È una questione politica più che burocratica, visto che non vale soltanto per De Magistris il problema, ma anche per chi li ha presi. Questo è uno stadio che, quando si dice ha registrato i trionfi di Maradona, è assolutamente vera, ma non possiamo vivere sempre nella storia, non possiamo, esatto, però non possiamo vivere sempre nella storia e nel ricordo di quello che è stato. No, il San Paolo di Napoli, diciamolo chiaramente, è un luogo incivile per ospitare della gente, per ospitare delle persone, per ospitare delle partite di calcio, per ospitare degli eventi. È un luogo incivile, come ce ne sono altri, mica solo il San Paolo di Napoli. Sì, no, ma purtroppo girando in Italia ci accorgiamo che ci sono altri. E sì, per fortuna, per carità. Girando in Europa ci accorgiamo che ci sono stati straordinaria bellezza ovunque. Sì. Però guarda, su quello posso dirti, secondo me serve anche cogliere delle occasioni. Io, per esempio, l'europeo del 2024 potrebbe essere un'opportunità. Cioè, secondo me ci sono, perché poi alla fine, se noi andiamo a vedere i casi anche all'estero, la Germania è cresciuta tanto, ma è cresciuta tanto anche grazie agli stadi dei mondiali, sì. La Francia sta facendo lo stesso. Appunto, la Francia sta facendo alla fine lo stesso. Forse al di là del fatto che ci sono i privati, se ci sono degli esempi tipo l'Emirates, tipo l'Allianz Arena che era già stata costruita, cioè, di aziende che intervengono, ben venga, però insomma poi alla fine, per dare un boost, come dicono gli inglesi, bello boost, per dare una spinta all'economia e al livello dei nostri stadi, una cosa che ci servirebbe è proprio tornare a essere competitivi nell'organizzazione di qualche grande evento. Grazie Antonio, poi, aspetta che saluto, aspetta che saluto. Di non fare poi come nel 90, ecco. Sì, certo. Ma siamo stati tutti quanti allo stadio, ad esempio allo stadio di Varsavia, dove l'Italia batté la Germania 2-0 agli europei, stadio di Varsavia che è stato fatto, ristrutturato ed è meraviglioso a Varsavia, Antonio, grazie. Buon lavoro, ciao Antonio Giordano. Prima di salutare Pardo, Antonio dalla Spezia e Pietro da Salerno, buongiorno Antonio. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Io volevo sottolineare una cosa riguardante il caso Capuano. Cioè, non è stato violato lo spogliatoio, nel senso che fra i giocatori queste cose se le raccontano, anche fra i giocatori di altre squadre. Perciò come si comporta Capuano all'interno di uno spogliatoio lo sanno tutti, sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. Quindi? quindi questa cosa ha fatto clamore, perché magari è uscita al di fuori degli addetti ai lavori, ma un giocatore che oggi gioca nell'Arezzo, domani va a giocare nel Catanzaro, trasporta tutto quello che Capuano fa, dice, e questa cosa Capuano la dovrebbe sapere. Perciò per non avere dei giocatori prevenuti negli anni futuri dovrebbe cambiare il comportamento. Sì, ma il discorso è sempre quello che abbiamo fatto prima, no? È stata resa pubblica una situazione che normalmente dovrebbe essere privata. Poi è chiaro che i giocatori conoscono, sanno, parlano, eccetera, però questa è stata resa di dominio pubblico. Pietro da Salerno, così rispondiamo ad entrambi. Sì, salve a tutti. Allora, io questo signor Capuano lo conosco meglio come Fiorino, perché è un allenatore delle giovanili di lungo corso del Salernitano, dove tra l'altro io ho fatto le trafile in diverse squadre giovanili. E lui era conosciuto per essere un personaggio al limite, molto discutibile sotto molti punti di vista. Poi ha fatto sempre un po' di speculazione e altre cose sui giovani, sui ragazzi da portare in giro. Però non credo che il problema sia che è venuto fuori o meno questo atteggiamento. A parte il fatto, perché chi lo conosce da tempo, sa perfettamente che è in linea con tutta la sua excursus professionale. Questo lo sappiamo, però, questo l'abbiamo capito. Il problema è, andiamo un po' alla base, c'è una degenerazione etica, morale nel mondo del calcio, che poi pregiudica anche la crescita giovanile e soprattutto giovani che abbiano... Pietro, chiedo un ultimo parere a Pardo, anche perché abbiamo ancora 30 secondi, non allargherei così tanto il discorso, non so tu Pier... No, non lo allargherei neanch'io, io penso che... La chiuderei qui e sono d'accordo con tutti e due, sicuramente, ma col primo ascoltatore è vero, cioè in qualsiasi ambiente, soprattutto in ambienti come quello del calcio, ma può essere anche quello della televisione, ambienti dove non è che ci sono decine di migliaia, no, di impiegati, ma ci sono X persone, si sa tutto di tutti, è ovvio che si vengono a sapere benissimo i comportamenti di un allenatore, quindi su questo... non ci sono dubbi, semplicemente l'abbiamo detto mille volte, a rendere questa cosa pubblica, tutto qua. Certo. Pierluigi, sentiamo domani. Senz'altro. Ciao. Volley, mi raccomando, tranquillo, parleremo di volley, andremo in Spagna, parleremo di moto mondiale, parleremo con tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire all'800240024. A dopo. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo della prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. indexpa.it. Si ricomincia. Convocati. Les presentamos el Getafinder, una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe. Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más. Getafinder solo funciona en estas gradas que están llenas de amor. Tú le gustas, él te gusta, sois del Getafe Club de Fútbol. Spero che adesso Filippo Maria Ricci dalla Spagna mi racconti che non è vero questo, che Getafinder non esiste. Adesso ve la spiego e ve la raccontiamo questa storia del Getafe, terza squadra di Madrid, che gioca davanti a pochi intimi, e si è inventata questa iniziativa, cioè vai allo stadio, scarica la app, l'applicazione sul tuo cellulare e all'interno dello stadio trova l'anima gemella. Lo slogan è: riproducendosi saremo di più. Dimmi che non è vero. Filippo Maria Ricci, ti prego, dimmi che non è vero. No, ma il problema è che sono recidivi. già sì. fecero un altro, adesso che mi fai ragionare su queste cose, mi viene in mente un altro video tremendo non penso di ricordare male, ha fatto tutto sugli spermatozoi che si incontravano. Mamma mia. Mi sembra sempre al Coliseum. Non c'è nessuno, effettivamente incontrarsi è facile. Sì. Sarebbe da dire anche per uno spermatozoo. No. Però questo è tutto vero, come diceva è tutto vero. Il famoso titolo della Gazza. Ma tu hai già scaricato l'app sul cellulare o no? No, ancora no, perché non vado tanto al Coliseum, però adesso è tipo sì, è il Tinder. Oddio, non riesco a... Cioè, ma dove vogliono arrivare? Questi da Getafe forse da avere dove vogliono arrivare? Invece che 3.450, perché poveretti, così stanno messi. È una cosa che non si capisce, perché adesso, a parte tutto, poi mi dispiace anche prendere in giro, perché lo stadio è carino e in realtà è a 10 km dal centro di Madrid, non si riempie nemmeno quando vengono Barcellona e Real Madrid. È chiaro che i prezzi sono un po' alti, però anche la gente, il quartiere, cioè è un municipio a sé, quindi insomma è un paesone e dovrebbero riempirlo, però niente, la gente tifa Atletico, Real Madrid o al limite Barcellona, e lì ci vanno in pochi. Non si è mai creata in tutti questi anni, e lo pensavo sempre come una sfida, dico adesso vado al presidente del Getafe e dico ti riempio questo stadio, perché è impossibile che non si riempia, però penso che sia una missione impossibile, e quindi ormai la disperazione porta a questi gesti. Al Getafinder. Porta al Getafinder, all'applicazione per trovare l'anima gemella all'interno dello stadio. Vi risparmio i dettagli dello spot che abbiamo fatto sentire. Allora, vi do per la cronaca un paio di notizie relative al Milan. Allora, la prima è che Villa Arzilla si arricchisce di un nuovo ospite, che sarà Emanuelson. Dopo Boateng, a Milanello si allenerà anche Emanuelson, aspettando Beckham, che credo arriverà anche lui prima o poi. Per quanto riguarda il fronte societario, invece, è in programma all'inizio, vi leggo un'agenzia, della settimana prossima a Hong Kong una riunione tra alcuni dirigenti di Fininvest, i più stretti collaboratori di Mr. B, e gli esponenti di alcune istituzioni finanziarie coinvolte nell'operazione che dovrebbe portare alla cessione del 48% del Milan al broker thailandese. Appuntamento a cui parteciperanno il direttore business development di Fininvest, Alessandro Franzosi, e direttore finanziario Alberto Garletti. È considerata dalle parti importante, ma difficilmente sarà la tappa finale di una trattativa che, dopo il rinvio del closing inizialmente fissato a settembre, secondo quanto filtra sta proseguendo con contatti e conference call quasi quotidiane. Questo è il testo dell'agenzia. Torniamo a Filippo Maria Ricci, alla Spagna. Lasciamo stare per favore Getafinder per un momento. Sì, anche se mi è venuta in mente un'altra cosa. Dimmela. Il presidente è proprietario di uno di questi club dove gli uomini vanno volentieri, e è una delle pubblicità più grosse all'interno dello stadio, quindi in fondo siamo in linea. Sì, va bene, adesso puoi cambiare discorso se bene, vuoi. Parliamo di Benitez, che Rafa che non manca di lanciare delle frecciatine verso l'Italia ogni volta che può. Sì, adesso ha detto che sì, all'Inter mi aveva... Lo sentiamo? Sentiamo cosa ha detto Benitez. Se l'Inter mi había dado la palabra, teníamos tres fichajes, Cao, De Bray y Mascherano, y no se hizo ninguno. Pero... ¿Tiene Ebra, Mascherano y Caut? Y Caut, Dirk Caut. Dirk Caut. Y bueno, luego en el Nápoles, pues era uno de los nombres que yo sabía que era casi imposible. Mi sembra chiaro, se non è chiaro lo spiego. Mascherano e Caut, che sarebbe Dirk Caut, comunque Evra, Mascherano e Caut, giocatore olandese ben noto. All'Inter mi avevano promesso che avrebbero preso questi tre giocatori, ma non se ne è fatto niente. Però questa è la prima volta che fa questi tre nomi, quindi sta, perché questo discorso che non gli hanno fatto gli acquisti era trito e ritrito, sì. Però stavolta ha aggiunto i tre nomi, Non erano mai venuti fuori, o sbaglio? Sono io che ricordo male. Evra non ne sono sicuro, Mascherano e Caut sì. Cioè se n'era già parlato, se ne parlava ai tempi in cui Benitez era allenatore dell'Inter. Comunque dice, mi avevano promesso questi, non me li hanno presi, e poi è andato tutto a scatafascio. L'altra volta aveva detto che i giocatori dell'Inter andavano in bagno col telefonino. Andavano? In bagno col telefonino. Sì, sì, sì. Questa è un'altra. Sì. Che vuol dire, vabbè, si può pure fare, vuol dire, in bagno non... Se lo può pure portare, insomma. Senti, è una cosa lunga. Telefonata, ma perché ha questo astio nei confronti delle sue precedenti esperienze italiane? Una volta è il Napoli, una volta è l'Inter, una volta è l'Inter, una volta è il Napoli, e distribuisce stoccatine di qua e di là. Perché? Ma questo è il grande limite di Rafa Benitez, che non riesce a godersi neanche, no, le cose buone che fa, che ha fatto, no? Deve sempre stare lì, no? A ravanare un po' con questa amarezza di fondo che lo contraddistingue e che è assolutamente inutile perché non va da nessuna parte. Quanto è passato da quant'è che non gli hanno comprato? è passato qualche giorno Filippo Maria Ricci, è passato qualche giorno. Dico, vabbè. Quindi ancora siamo lì. Poi dopo la cosa bella è che continua a ripetere che lui è un... Io gli ho consigliato dalle colonne del Mondo di confessare il fatto che è un difensivista, che non c'è problema, che va bene così, siamo difensivisti e vinciamo, e alla fine cosa vuole il tifoso del Madrid? Vuole giocare bene. Real Madrid quando mai ha giocato in maniera celestiale? Molto poco, o quasi forse ai tempi di Di Stefano, che nessuno se lo ricorda. Sì. E lui invece continua a dire no, adesso noi siamo la squadra che tira fuori questi record. Io ho fatto più gol di tutti al Napoli, ho fatto più gol di tutti al Liverpool, e ne ho segnati tantissimi nei 5 mesi al Chelsea. Dico, sì, va bene, però segnare tanti gol, magari il tifoso del Napoli avrebbe preferito 10 gol in meno e uno scudetto in più. E, per cui cioè, anche lì tutte queste statistiche, dice, ovviamente lo accusano per gli infortuni, no? Dice il 57% degli infortuni della Madrid sono arrivati in nazionale, con giocatori in nazionale. Va bene, d'accordo, però ce n'erano già abbastanza secondo me al Madrid, ma comunque è sempre lì che molto attento al dettaglio, in maniera sì. amabilmente maniacale. O ma come la mettiamo con Sergio paranoia, Ramos? Certo, dicono che abbia qualche problema con una delle bandiere del Real. Sì, anche lì ha negato. Più o meno che i brasiliani sono con più di una bandiera. Sì, la bandiera portoghese, la bandiera colombiana, la bandiera spagnola, diciamo che è rimasto solo Ramos, comunque diciamo il nome. E in più c'ha il famoso agente di Gareth Bale che non gli dà una mano, Jonathan Barnett, che già aveva detto, ti ricordi che avevamo commentato, che aveva detto che non gli passavano la palla, sì, a certo. Gareth Bale. Me adesso ricordo. Di nuovo se l'è presa con Cristiano Ronaldo, e allora pare che Ronaldo abbia chiamato Rafa e detto adesso ci parli tu, visto che parli bene inglese, col gallese ci parli tu. E in realtà ovviamente poi gli altri dicono no, tutto a posto, grande amicizia, ma no, si sapeva da tempo che il rapporto, ma si vede anche dalla mimica in campo, Ronaldo che non festeggia quando fa gol Bale, queste punizioni, tirare le punizioni, mi pare che abbia una percentuale di trasformazione sia una su 54 di Ronaldo, però le tira comunque tutte lui. Fa quello che vuole, è il capo lì dentro. E così, vedremo giusto dove che faccia quello che voglia, questo. No? Giusto magari che faccia quello che voglia, è il capo, cioè lì dentro non si discute. Su chi sia, su chi sia il capo. E rimane il gallese. Dimmi una cosa, un'ultima cosa invece. Avvistato El Señor José Mourinho in Ucraina per la partita della Spagna in tribuna con cappuccio alla Harry Potter. Sì, o dicono, da anche, sì. Dicono a spiare i giocatori della Dinamo Kiev che dovrà affrontare. Oppure ha qualche flirt con la nazionale spagnola? No, nazionale spagnola è impossibile. Però no, qua il flirt che non si è mai spenta, questa fiamma di grande passione che ha divorato la Casa Bianca è quella con Florentino Pérez. Però ovviamente non è prematuro. Però io continuo a ripetere, glielo dico sempre anche al presidente quando lo incontro, se fosse per lui lo riporterebbe a Madrid domani. Però anche Buon Mu non so se accetterebbe una cosa del genere, perché no, è una storia finita, dai, quella lì è stato scontato, non riprende, no, non si riprenderà più. Se mai dovesse prendere una nazionale, prenderà quella portoghese. Non lo so, io non lo vedo Mourinho al timone di una nazionale. Non riesco a immaginarmelo. Quella spagnola è impossibile, qua lo odiano, cioè poi gli comincia a dire che la fa giocare male. No. La nazionale spagnola è impossibile. Dunque era lì a visionare i giocatori, a spiare i giocatori della Dinamo Kiev che affronterà con il suo Chelsea. Ciao Filippo, grazie. Ciao a voi. Ciao, un abbraccio. Allora, torniamo agli ascoltatori. C'è chi mi scrive, guarda che Villa Arzilla aspetta anche te, riferendosi al Milan. Va bene, posso andare serenamente ad allenarmi a Milanello insieme a Boateng, a Emanuelson, magari a Beckham, che potrebbe aver voglia di sgranchirsi le gambe, o a Franco Baresi. Ci può stare. Ci può stare. Dice signor Benitez. Alfonso, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie della convocazione e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie. Volevo parlare di volley. Sì. Di volley e della bellissima gara di ieri. Penso che quest'anno abbiamo un gruppo assolutamente forte. Dove si trova? All'autodromo? Sono in mezzo alla strada di Mestre. Ah, ok. Niente, io solo volevo sollevare un piccolo problema che poi non è, cioè forse la polemica è vecchia, però dentro all'interno noi abbiamo un giocatore che è Guanto Regna, che è forse il più bravo di tutti, non lo so, però lui ha un problema, cioè lui teoricamente non sarebbe italiano. E quindi lui ha avuto la sua cittadinanza e allora secondo me è un problema, cioè non credo che possiamo, cioè, guarda, io sono dell'idea, è un vantaggio per noi perché ci dà forza e potenza. Alfonso, io sono dell'idea che non cambio per qualunque sport, che tutti quelli eleggibili, che hanno quindi regolari documenti, possono essere chiamati, è giusto che siano chiamati se sono funzionali alla squadra. Questo vale per il volley, per il calcio, per la pallacanestro, per il rugby, come sappiamo bene. Già che siamo in argomento, questo 3-0 sulla Russia, meravigliosa partita della nazionale italiana con Zaitsev, grande protagonista. Avremo una semifinale estremamente intrigante perché il nostro amico Andrea Giani ha compiuto un risultato storico, cioè quello di qualificare la Slovenia alle semifinali europee. Sarà la nostra prossima avversaria e noi sentiamo le voci del dopo Russia, del dopo Italia-Russia, di Blengini e Zaitsev. Ho giocato bene da molti punti di vista, dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione, della capacità di sapersi adattare a una squadra che aveva cambiato pelle. L'avevamo battuta poche settimane fa in World Cup, li abbiamo rincontrati oggi con una pelle diversa e siamo stati capaci di adattarci alla nuova pelle che gli stava dando buonissimi risultati e quindi siamo molto contenti soprattutto del risultato. Molto bello, sono contento, vincere per la seconda volta in due settimane contro la Russia, doppio 3-0, penso che sia una bella soddisfazione, quindi soprattutto giocando bene con l'acqua alla gola, tra virgolette, perché era una partita dentro e fuori, abbiamo beccato la parte del tabellone tra virgolette più difficile perdendo con la Francia, ci sono stati un po' di casini dopo la sconfitta francese, però credo che la reazione sia la dimostrazione di quanto questo gruppo sia forte, sia unito e di quanto abbia voluto vincere questa partita di stasera, soprattutto vincerla dominandola. E questi erano il CT della nazionale italiana, Blengini e Zaitsev, la nostra stella. Matteo da Como, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dica. Io volevo fare un passo indietro e tornare a parlare un attimino di Milan. Sì. Mai sorpreso quando ho sentito la notizia di Emanuelson che è tornato ad allenarsi insieme a Boateng. Non ce la facciamo più di queste minestre riscaldate, veramente, non ce la facciamo più. Siamo disperati. Adesso, Matteo, ci scherziamo sopra, ma non so se verranno tesserati, vediamo. Sì, no, questo lo spero vivamente. Infatti, perché poi col numero chiuso di 25 giocatori dovremmo levarne due per dar spazio a due minestre riscaldate, che sinceramente non so quanto. Comunque, vabbè, si allenano. Un'altra domanda sullo stadio ex Milan-Portello. Ma il Milan ha dovuto pagare una penale e di quanto se l'ha dovuta pagare per la non costruzione al Portello? Non si sa ancora, probabilmente dovrà pagare una penale, si parla di una decina di milioni di euro. Questa è la cronaca che però approfondiremo, non ci sono ancora notizie certe ufficiali, ma state tranquilli che ci faremo tenere aggiornati da Marco Bellinazzo, che questa vicenda l'ha seguita tutta dall'inizio alla fine un po' triste, insomma. Vi faccio sentire un'altra voce che è quella di Valentino Rossi. Secondo me ci deve assolutamente essere a questo punto una parte di razionalità, perché siamo arrivati a questo punto del campionato e dove sarà da una parte è importantissimo cercare di andare forte e cercare di essere competitivi con Jorge già da domani mattina, e per questo bisognerà andare al 110% perché lui va sempre fortissimo, ma dall'altra parte bisognerà portare a casa più punti possibili perché ne mancano solo 3. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, ciao Ale. Buongiorno, ciao Carlo. Senti, io ho avuto la sensazione, che vorrei condividere con te, che la gara di Motteghi sia stata abbastanza decisiva nella corsa di Valentino Rossi, perché non è solo questione di quei più 18, è, mi sembra, un'inerzia che Rossi si è preso in mano e che proverà a tenersi a Phillip Island. Ma guarda, sì, sono d'accordo. Motteghi insieme ad Aragon era visto come un campo favorevole a Lorenzo, e Valentino ne è uscito con un vantaggio accresciuto, quindi già questo la dice lunga. Poi c'è l'aspetto psicologico, che come sappiamo è sempre un elemento, no, fondamentale nella carriera di Valentino, i suoi famosi mind games, no, i giochi mentali. Sì, sì, ha già cominciato. Insomma, ecco, sicuramente noi ci abbiamo molto marciato, però c'è qualcosa di vero, e io credo che tu abbia ragione, cioè è stata una gara decisiva. La logica dice, se ha scavallato così bene due piste, se fossimo nel calcio diremmo se ha vinto così bene in trasferta, adesso figuriamoci in casa, perché a Phillip Island ha vinto 8 volte in vita sua, 6 in MotoGP, a Sepang va altrettanto bene, no? Quindi la logica porta a questo. Poi c'è tutto l'imprevisto, però è anche vero che l'imprevisto è il luogo dove Valentino si muove molto meglio di Lorenzo, quindi sì, la via sembra tracciata, però per usarti un'espressione originale, la strada è molto lunga ancora. Sì, però mi sembra abbia messo un discreto masso di pressione sulle spalle di Jorge Lorenzo, che la pressione non la supporta benissimo. No, poi guarda, quando lo stuzzichi Valentino diventa una iena, perché sì, quando si sente dire che è fortuna, come ogni campione, no, poi alla fine, perché insomma ti senti dire che sei fortunato. Intanto sulla pioggia bisogna saper guidare. E poi qui non è soltanto la pioggia in realtà, perché su quella aveva guidato bene anche Lorenzo, ma è proprio nella gestione dell'imprevisto. Io non credo che sia fortuna, credo che sia proprio una migliore capacità, un miglior controllo. Adesso ascoltavo la frase che hai mandato in onda, razionalità. Valentino, a dispetto del suo, cioè al di là del suo modo di apparire, è un ragioniere giapponese, cioè lui è un ragioniere giapponese, un ingegnere giapponese, sì, no? Sì. Travestito da rockstar, da rockstar, da pilota, da fuori classe, Marchigiano romagnola, sì. Tutta un po' vinta, cioè. Però in realtà lui è una macchina in questo, e quindi razionalità la sa usare molto più di tutti gli altri, l'ha sempre usata più di tutti gli altri. Non a caso è sempre sul podio e ha fatto sempre punti quest'anno ed è l'unico fra i grandi. Certo, della MotoGP. Grazie Ale, ti devo salutare, devo chiudere. Buona giornata. Ci sentiamo, ciao, presto, ciao. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, e chiudiamo qui, game over. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia e Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Grazie, buon appetito.